Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Londra, 28 maggio 2011. La finale di Champions League. La battaglia di un calciatore. Eric Abidal solleva la Coppa dei Campioni a 72 giorni dall'asportazione di un tumore al fegato. Rompere il fiato è il momento per eccellenza, quando arrivi oltre il limite imposto dal tuo stesso corpo e lo costringi a superarlo. Mentre il sudore brucia gli occhi e i polmoni sono tizzoni dentro la cassa toracica, arriva quel momento di grazia e sei al di là di una barriera. Il momento in cui il corpo si concentra su se stesso e poi il resto diventa altro da te e c'è quella sensazione di invulnerabilità. Rompere il fiato. Il campo è sempre uguale, gli avversari cambiano e a mano che si sale di livello sono sempre più tosti. Ma oggi il nemico non sono loro. Oggi non credo ci sia nemico al mondo. C'è solo qualcosa da dimostrare e non lo dimostrerai agli altri. La palla al centro del campo è cieca e priva di preferenze di sorta. Sei tu a decidere. Sembrava che non potessi più decidere un granché. Il 5% sopravvive. Non è un bel dato statistico. Il 5% è veramente poco. Eri già uscito da un bel po' di percentuali in difetto. Quanti bambini sognano di diventare calciatori? Quanti arrivano a giocare nella Liga? Quanti la vincono? Quanti stanno dalla parte buona della percentuale? Il pallone è nel cerchio bianco e l'arbitro ha già il fischietto in bocca. Il bisturi è ben maneggiato, l'anestesia non lascerà ricordi, né sogni, né incubi. C'è da pregare. In queste circostanze pregano tutti, o almeno così dicono. Qualcosa a cui pensare che non sia quel restante 95% che se ne va all'altro mondo. Non pensare se c'è o meno l'altro mondo. Il sogno. Ricordare la determinazione che ci vuole per raggiungerlo. Non dimenticare che di rinunce ne sei capace, che sei in grado di focalizzare l'obiettivo. Il fischio parte acuto e riverbera per tutto lo stadio. I giocatori scattano e scatti anche tu. La partita l'hai visualizzata parecchie volte. La palla ti arriva sui piedi, ci resterà il tempo che deve. L'obiettivo è lo stesso di tutte le altre volte, rompere il fiato e vedere come tutto accelera intorno a te. La sala è sterile e le luci sono di quel bianco in fondo al tunnel. Sono tutti gentili, dai toni morbidi che si usano con i bambini spaventati. L'adrenalina pompa, il corpo ha paura. Andiamo, chi non avrebbe paura? Le fasce durano 105 metri. Correre quei 105 metri avanti e indietro. La palla è la sola cosa che l'occhio cerca. Le gambe sono pesanti e devi aprire sempre di più la bocca per ossigenare meglio. Il corpo è al limite, ma sai che è una bugia. Sai che puoi sconfinare, basta accelerare ancora un po'. Si scambiano un paio di battute. Ti vogliono palesemente distrarre. L'anestesista si avvicina raccontandoti che devi contare da 10 a 0 e lo sai benissimo che massimo arriverai a 8. Il 5% non è poi così poco e ci manchi solo tu a prenderti per il culo da solo e poi buio. Eccolo, il fiato si rompe con la palla fra i piedi, sollievo di tutto il corpo che evapora all'improvviso, la corsa a un volo e la vittoria in tasca. Puyol sarebbe stato fra i pochi ad alzare quella coppa per la terza volta in una carriera, ma ce l'hai in mano tu. Oltre 90.000 nella stadio stanno in piedi ad applaudire una vittoria, la Coppa dei Campioni sopra la testa. E tutto è possibile. Francesca Bertuzzi, in libreria con Il Carnefice, Newton Compton Editore, 279 pagine, 9,90 €. Per riascoltare e scaricare tutte le storiacce del sabato e della domenica, www.radio24.it, alla voce podcast. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog. Ciao a tutti, al prossimo weekend.